Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e come ogni anno in questa occasione siamo in diretta, stiamo trasmettendo dal workshop Ambrosetti, prima giornata dei lavori a Cernobbio. Il tema sostanzialmente è la qualità di questa ripresa e se ne è dibattuto e se ne dibatterà anche domani e nella giornata conclusiva di domenica con numerosi ospiti, praticamente i vertici del mondo bancario e imprenditoriale italiano. Domenica arriverà anche il ministro Tremonti e in attesa invece il ministro Gelmini. Il tema ha riguardato in questa prima giornata sicuramente la qualità di questa ripresa, anche alla luce delle parole pronunciate questa mattina dall'Asia dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha detto in sostanza che la ripresa c'è e c'è un cautissimo ottimismo e comunque si sta diffondendo in Europa, e poi ha evocato il modello tedesco come modello che anche l'Italia dovrebbe seguire. La Germania è il paese che sta cavalcando in maniera più robusta in assoluto in Europa e non solo la ripresa economica. Questo è il tema principale, ma non poteva non echeggiare anche a Cernobbio la dichiarazione di ieri del Presidente della Repubblica, ne abbiamo parlato ampiamente nel corso del programma, ossia la necessità che l'Italia si doti di una seria politica industriale, con il corollario dell'assenza di un ministro allo sviluppo economico e, aggiungiamo noi, anche del Presidente della Consob. Anche di questo hanno parlato i vari ospiti in questa prima giornata di lavori qui a Cernobbio. Ne avremo alcuni nei nostri studi, arriverà tra poco il presidente della Brembo e vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, poi sarà la volta del presidente dell'Enel Piero Gnudi, dell'amministratore delegato dell'Edison Quadrino, dell'amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo Corrado Passera e altri ospiti che invece abbiamo intervistato nel corso della giornata. 349-238-6666 resta anche da Cernobbio il numero per i vostri SMS. Rapidamente allora le altre notizie in breve, partendo dai mercati finanziari. Mercati ben intonati anche per le parole di Mario Draghi, ma anche per le parole di Barack Obama. Infatti c'è stata anche una dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti sostanzialmente ottimistica. Ha detto Obama: andiamo verso giorni migliori e l'economia si muove nella giusta direzione, nonostante ad agosto il tasso di disoccupazione in America sia salito al 9,6%, ma in linea con le previsioni, quindi nessuna sorpresa negativa. I mercati finanziari, dicevamo, più 1,1% Milano, più 1% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,70% Londra, l'America guadagna lo 0,60%. E poi, come sempre, in apertura il petrolio, in calo a $74,90 al barile, e l'oro che invece continua la sua corsa, continua ad avvicinarsi al record storico che è di giugno, se non ricordo male, 21 giugno. E comunque oggi siamo a $1,250 l'once. Dicevamo di Barack Obama questa mattina, allora andiamo subito nel tema di questa prima giornata di lavori a Cernobbio. Barack Obama ha detto: andiamo verso giorni migliori, la crisi la stiamo superando, si muove nella giusta direzione. Interessante che oggi Nouriel Roubini, che è considerato da tutti l'economista che ha saputo per primo prevedere la crisi, l'abbiamo avuto ospite anche nel nostro programma, da alcuni chiamato Mr. Doom, Mr. Gufo diremmo noi, però è un gufo che ci ha visto lontano. Beh, Roubini la pensa in maniera direi quasi opposta rispetto al presidente Barack Obama e non ha avuto modo di nasconderlo nei lavori oggi qui a Cernobbio e poi nelle dichiarazioni che ci ha rilasciato. Ascoltiamo allora il giudizio di Roubini sui rischi ancora presenti in questa crisi, soprattutto il rischio più temuto, il cosiddetto double dip, ossia una nuova piccola recessione dopo la ripresa economica a cui abbiamo assistito. And already the data from July and August Tutti i dati arrivati sulle vendite al dettaglio, sui beni durevoli, sull'occupazione sono negativi. I dati di oggi sui sussidi di disoccupazione sono mediocri. Ci sarebbe bisogno di una crescita di 150.000 posti di lavoro al mese solo per stabilizzare il tasso di disoccupazione. Tutto sembra suggerire che l'economia stia ulteriormente rallentando. E una volta che si arriva ad una crescita dell'1% circa, come mi aspetto per la seconda parte dell'anno, sembrerà una recessione anche se tecnicamente non lo è. Tutto appare peggiorare. Il mercato del lavoro è debole, il deficit di bilancio si amplia, i prezzi delle case scenderanno ancora di più, le perdite delle banche sui prestiti e i mutui saranno ancora più alte. Dunque, sembrerà una recessione anche se non lo è. E c'è il rischio che, procedendo così lenti, si cada giù dal burrone, perché lo shock dell'economia reale si può trasmettere ai mercati finanziari. Ulteriori correzioni in borsa, ampliamento degli spread, effetti negativi sulla ricchezza, portando l'economia formalmente in una recessione a doppia V. Queste sono le preoccupazioni per quanto riguarda gli Stati Uniti. Insomma, molto duro il giudizio di Rubini. Dice: se arriviamo a una crescita dell'1%, questa è una stagnazione economica, serve creare quasi 200.000 posti di lavoro in America, questo non sta avvenendo. Comunque, ripeto, Mario Draghi veste anche di presidente del Financial Stability Forum e quindi in qualche modo della CIS, dei governatori delle banche centrali mondiali, ha detto c'è un cauto ottimismo sulla ripresa. Adesso sentiremo i nostri ospiti nei vari interventi che faranno qui dagli studi di Radio 24 al workshop Ambrosetti a Cernobbio. È tornato però anche il Presidente della Repubblica a parlare di economia in un'intervista al Messaggero oggi. Dice Giorgio Napolitano: l'Italia cresce poco, basta leggere i numeri che danno i giornali e magari guardarsi un po' intorno. Altri dati rapidamente per quello che riguarda Confcommercio: c'è una lieve ripresa a giugno e a luglio. Per quello che riguarda invece la cassa integrazione, l'INPS oggi diffusi i dati sui primi 8 mesi dell'anno, e in aumento del 60% ricorso alla cassa integrazione rispetto al 2009, con 826 milioni di ore, ed è volata soprattutto la cassa integrazione in deroga, e quindi quella che riguarda le imprese anche più piccole. Questo è il dato abbastanza preoccupante, triplicata, passando appunto ad agosto da 12 milioni a 35 milioni, 12 milioni di luglio a 35 milioni di ore. Però, le domande di disoccupazione sono calate di quasi il 10% a 152.000, ma hanno fatto un balzo, cioè sono calate ad agosto rispetto a un anno prima, hanno fatto un balzo invece rispetto a giugno, perché hanno fatto più 80% rispetto a giugno. A dire che va meglio rispetto al 2009, va peggio, se così possiamo leggere il dato, rispetto alla prima metà dell'anno, che è un po', devo dire, l'idem sentire, il filo rosso che sta emergendo da questa prima giornata di lavori anche qui a Cernobbio. C'è un rallentamento in una ripresa che comunque c'è stata nei primi 6 mesi dell'anno. Ancora due notizie rapidissime. Il TAR del Lazio, il mitico TAR del Lazio, ha sospeso la gara per i supertreni ad alta velocità, quella che avevano indetto le Ferrovie dello Stato e che aveva vinto il consorzio Ansaldo Breda, Finmeccanica, Bombardier. Ha accolto infatti il ricorso proposto dalla francese Alstom, che già invece fornisce i treni per i concorrenti, per il gruppo NTV, quello di Montezemolo. Alstom aveva fatto ricorso e il TAR del Lazio ha sospeso la gara, e il gruppo Alstom ha detto: il ricorso l'abbiamo fatto per mantenere i nostri occupati in Italia. Il ricorso è stato accolto perché il TAR del Lazio ha ravvisato numerose infrazioni, almeno una ventina, alla legge e al capitolato nell'assegnazione del punteggio, e ha quindi chiesto la sospensione della gara, oltre a richiedere l'accesso agli atti della proposta tecnica ed economica di Ansaldo Breda Bombardier. Ultima delle nostre notizie in breve. Adesso nel ricordarvi di nuovo il numero per i vostri sms, 349-238-6666. Vedo che che molti di voi stanno già commentando le dichiarazioni di Draghi, le dichiarazioni di Rubini, insomma, ripresa sì, ripresa no. Attenzione, perché insomma ne parleremo lungo tutta la puntata. Vorrei però iniziare con il sondaggio che, come ogni anno, l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore ha condotto con un altissimo numero di poi personaggi, manager, amministratori delegati, presidenti, molti dei quali presenti anche qui a Cernobbio, proprio sulla qualità di questa ripresa. Allora partiamo da questo tema, lo scenario economico che sta emergendo a Cernobbio. Sì, ho dimenticato di dire che tra l'altro, oltre ai ministri italiani, arriverà Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, il commissario europeo Joaquin Almunia e poi i ministri Alfano, Brunetta, Gelmini, Maroni e Tremonti, il presidente di Confindustria Marcegaglia, e sono già arrivati invece appunto Corrado Passera, Nuria Rubini e poi sarà la volta anche di Jean-Paul Fitoussier e Mario Monti. Dicevamo, come ogni anno alla vigilia di Cernobbio, l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore ha svolto un'indagine tra economisti, imprenditori, professionisti per conoscere le attese, cosa sentono, cosa vedono sia gli economisti ma soprattutto i manager che tutti i giorni controllano i bilanci. E allora questa scheda ricorda i dati principali di questo sondaggio. Avanti piano, fuori dal pantano della crisi, senza grande accelerazione. È questo che spera e prevede la stragrande maggioranza degli oltre 200 tra imprenditori, manager, professionisti, analisti e gestori interpellati da Radio Corriere in occasione del forum di Cernobbio. Per l'esattezza, l'83% si attende una ripresa, ma con ritmi piuttosto blandi. Solo il 3% scommette su una progressiva accelerazione della crescita, mentre il rimanente 13% continua a vedere nuvole scure all'orizzonte che porteranno una nuova recessione. Nel complesso prevale dunque un moderato ottimismo che non si estende però ai mercati azionari. Da inizio anno Piazza Affari ha perso circa l'1% e secondo 3 interpellati su 4 non è lecito attendersi un recupero nei prossimi 6 mesi, ma sono anzi possibili ulteriori cali. Solo il 24% scommette su una crescita della borsa milanese che azzeri la flessione accumulata in questi 9 mesi. Non molto differenti le previsioni sul listino newyorkese Dow Jones, previsto stabile nei prossimi 6 mesi intorno ai 10.000 punti da quasi il 70% degli intervistati. A credere in una ripresa della borsa newyorkese è solo il 12,7% del campione, il rimanente 17% prevede invece addirittura una discesa sino a 9.000 punti. Infine il rapporto euro-dollaro. Anche qui prevale l'attesa di una sostanziale stabilità del cambio intorno ai livelli attuali, una previsione su cui puntano 7 interpellati su 10. Solo il 12,7% si attende un graduale raggiungimento della parità euro-dollaro, mentre un altro 13% punta viceversa su un ulteriore rafforzamento del biglietto verde. Allora, come vedete, anche negli oltre 200 imprenditori, manager, professionisti, gestori, insomma, non emerge un giudizio netto ed emerge molta cautela. Lo dico a chi scrive al 349-238-6666 dicendo: ma dove cavolo è sta ripresa? Attenzione, nessuno ha mai detto che sia forte e che sia certa. C'è con noi, perché ha coordinato anche i lavori per la Radio Corriere Sole 24 Ore, una voce nota e da alcuni di voi anche mitizzata, visto che spesso commenta i nostri mercati finanziari come Radio Corriere Sole 24 Ore, Livia Zancaner. Buonasera Livia. Buonasera. Allora, diciamo, cerchiamo di trovare un tratto comune a risposte. Sì, abbiamo visto l'83% dice la ripresa ci sarà ma i ritmi sono blandi. C'è qualche altro elemento, soprattutto sui mercati finanziari, che ha visto un consenso molto alto tra i vostri intervistati? Sì, allora, un fattore che è stato più volte citato dagli intervistati è sicuramente la volatilità, nel senso che la maggior parte delle persone intervistate ritiene che i mercati finanziari americani ed europei rimarranno stabili, ma comunque predominerà il nervosismo. Ad esempio Giuseppe Attanà, presidente di Action Forex, ha sottolineato che il listino milanese nel medio termine cercherà di recuperare le perdite, ma mostrerà comunque un andamento estremamente volatile. Wall Street rimarrà stabile, ma sempre con momenti di elevato nervosismo. Della stessa idea anche l'economista Mario Sarcinelli, che ritiene appunto che la borsa americana sarà fortemente volatile, ma intorno alle attuali quotazioni, mentre Milano avrà comunque scarse possibilità di recupero. Allora, questo per quello che riguarda i mercati finanziari, devo dire, insomma, già da queste parole, volatilità e da un lato e ripresa con ritmi blandi, si capisce tutta l'incertezza anche di chi guarda i conti tutti i giorni. Alcuni di voi chiedono della MAGA. Allora, la MAGA non l'hanno invitata a Cernobbio, non che non potesse venire. La MAGA la inviteremo noi venerdì 17, perché abbiamo deciso che venerdì 17 è il giorno della MAGA. Chiusa questa parentesi sulla MAGA, andiamo avanti invece con i temi del sondaggio. I più pessimisti e i più ottimisti invece. Allora, pessimista d'eccezione è sicuramente l'avvocato Guido Rossi. Secondo l'avvocato esiste realmente il rischio di una depressione analoga a quella che c'è stata nel 1973 negli Stati Uniti, poiché la politica americana della Federal Reserve è del tutto sbagliata e porta verso la deflazione. Rossi teme quindi un effetto a catena in Europa, perché come sempre tutto parte dagli Stati Uniti. Delle stesse idee anche Roberto Crapelli, amministratore delegato di Roland Berger Italia. Secondo Crapelli infatti vi è effettivamente il pericolo di una nuova recessione che sarà limitato e di breve durata, soprattutto negli Stati Uniti, e la ripresa in atto, che comunque continuerà ma a passo lento, sarà sofferta e non come quella vissuta dall'economia nei passati 30 anni. Allora, grazie a Livia Zancanel, perché è importante capire che tipo di purtroppo il consenso mi sembra di poter dire che c'è sull'incertezza, e che non è il massimo, ma non è neanche il minimo, se ricordate le puntate degli anni scorsi da Chernobyl 2008 e poi soprattutto 2009, in cui veramente ancora non si capiva che piega avrebbe preso questa crisi. Detto ciò, vedo che molti di voi chiedono del nostro gufo. E dopo aver sentito Rubini a maggior ragione, in effetti siamo qui con i tecnici di Radio 24, con gli assistenti e anche con il gufo che tra una pausa e l'altra lungo il lago riappare. Eh sì, poi c'è chi scrive: la depressione viene a chi sente tutti i giorni Focus Economia. Ho capito, non è un obbligo, non è un ordine del medico, non so cosa fare. Il nostro gufo è ancora vivo. Detto ciò, andiamo avanti con le dichiarazioni proprio e i commenti sulla prima giornata dei lavori qui a Chernobyl. Il direttore generale di Confindustria, Gianpaolo Galli, dopo l'invito di Mario Draghi a usare il modello tedesco, ma soprattutto l'analisi del governatore della Banca d'Italia sulla qualità della ripresa, si è detto d'accordo con il governatore su un cauto, cautissimo ottimismo. Credo anch'io che ci sia spazio per un moderato ottimismo. È vero che gli Stati Uniti stanno rallentando, ma con tutta probabilità non stanno andando in recessione, stanno soltanto rallentando, e quindi avremo forse due trimestri di crescita attorno a valori europei, 1-1,5%, questo è possibile, ma questo è diverso da una recessione. E l'altra considerazione è che i mercati emergenti continuano ad andare molto forte, quindi sembra difficile che ci sia uno scenario diverso da uno scenario che in fondo è quello che abbiamo visto negli ultimi trimestri in Europa e anche in Italia, di lenta ripresa. Così Gianpaolo Galli, al microfono il nostro Simone Spezia, uno degli inviati qui a Chernobyl di Radio 24, sulla qualità della ripresa. Sentiamo anche il commento del direttore generale di Confindustria sul modello tedesco a cui Mario Draghi ha invitato l'Italia a fare riferimento, a copiare. Sul tema che pone Draghi, questo è un tema che avevamo già sollevato anche noi come Confindustria. La Germania non diventerà come l'Italia o come altri paesi mediterranei. Questa richiesta, che è stata pur fatta alla Germania, riducete la vostra competitività in maniera tale da ridurre l'avanzo delle partite, l'avanzo commerciale della Germania, e in questo modo alleviare i problemi degli altri paesi europei, questo è uno scenario del tutto improponibile, che la Germania non potrebbe mai accettare. Quindi per stare tutti nell'euro siamo tutti costretti a diventare più simili alla Germania, il che in fondo vuol dire importare delle virtù. Dicevamo che l'altro tema, chiaramente oltre alla qualità della ripresa, le dichiarazioni di Draghi, di Barack Obama, è stato molto italiano, cioè l'assenza del ministro dello sviluppo economico. Lo stiamo cavalcando da giorni, obiettivamente, insomma, dopo le parole del Presidente della Repubblica il tema c'è tutto. Su questo sono intervenuti tutti gli ospiti e faremo le domande a tutti gli ospiti che avremo nella prossima ora. Ascoltiamo sempre il microfono del nostro Simone Spezia, cosa ha dichiarato sull'assenza di un ministro dello sviluppo economico, 121 giorni, 22 con oggi giorni che manca il ministro, il presidente di Telecom Italia Gabriele Galateri di Genova. È difficile non auspicare che la nomina del ministro avvenga rapidamente, perché il mondo sta attraversando un periodo ancora molto complesso, quindi credo che una chiarezza per quanto riguarda gli sviluppi della politica industriale sia in tutti i paesi necessaria. In Italia si sta facendo molto a livello delle imprese, il governo ha fatto delle cose importanti, ma certo la presenza di un ministro è un fatto essenziale. Grazie. Grazie. Anche per il presidente della Consob. Beh, come si fa a dire che non c'è bisogno di un presidente della Consob? Partiamo con delle dichiarazioni che riguardano i mercati rilasciate qui al workshop Ambrosetti. In primo luogo i libici dentro Unicredit, avrete letto anche della scontro, della polemica sollevata dal sindaco di Verona Flavio Tosi, che partecipa alla fondazione Incari Verona, per cui partecipa alla fondazione del gruppo Unicredit, sulla presenza dei libici, il timore che una quota così forte dei libici possa mettere in difficoltà, sono saliti al 7%, possa distrarre il gruppo Unicredit dall'attenzione verso il territorio locale, quindi la città di Verona. Insomma, su questo è intervenuto il direttore generale dell'ABI, che è l'Associazione delle Banche Italiane, Giovanni Sabatini. Sentiamo al microfono sempre di Simone Spezia sulla presenza dei libici, la crescita dei libici dentro Unicredit. Di solito non parliamo di singole aziende, credo che comunque in un mondo globalizzato per società quotate, nel rispetto delle regole, chiunque possa entrare nel capitale di una società quotata e svolgere il ruolo dell'azionista. È la normale dinamica di un mercato dei capitali. Diceva Galli poco fa, Gianpaolo Galli dice non ci sono non segnali ma sensazioni che la stretta del credito si stia un pochino allentando, e però c'è Basilea 3. Insomma, diciamo, qualche fronte di preoccupazione dall'industria c'è ancora. Noi abbiamo sempre detto che non c'è stata una stretta creditizia e che è sempre stata la domanda di credito per investimenti che, data la crisi, era debole. Lo abbiamo, credo, dimostrato anche con gli interventi a sostegno delle imprese nella fase di caduta, quindi la moratoria, e anche i nostri dati dimostrano come il credito sia stato abbondante rispetto a altre situazioni recessive. Il tema di Basilea è un tema sicuramente delicato. A me sembra che, pur non discutendo della necessità di misure che rafforzino la patrimonializzazione e anche gli indici di liquidità delle banche, il problema è il timing con cui queste misure vengono introdotte. Così il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini, e sempre sulla... No, mi viene da sorridere perché è un'intervista abbastanza divertente. Sempre sulla presenza dei libici in Unicredit, sentite cosa ha dichiarato il nostro Simone Spezia, il presidente della Fondazione Banco di Sicilia, che è una delle fondazioni che partecipano all'azionariato di Unicredit. Insomma, gli è stato chiesto... scusatemi, ma insomma, pone dei problemi, delle tensioni... la presenza dei libici al 7% di Unicredit. Giovanni Puglisi. Per anni abbiamo continuato a dire che Unicredit era un modello da imitare, perché era l'unica banca italiana che aveva saputo andare fuori. E adesso la mettiamo in croce? Che qualcuno si imbufalisca che noi facciamo affari con gli arabi. Ha ragione Frattini. Quando si imbufaliscono, a nessuno viene il dubbio che forse si imbufaliscono perché vorrebbero farli loro. Noi abbiamo avuto la concessione in Libia. E grazie, non ho capito. solo gli arabi vedono cammello, non possiamo vederlo pure noi il cammello. E mi fa piacere che lo vedono gli italiani, non lo vedono i francesi, non lo vedono gli inglesi o gli americani. Dobbiamo sempre essere quelli che stanno in fondo alle classifiche. Dobbiamo sempre essere quelli che hanno il maggiore danno? Ma dove è scritto questo? Con Gheddafi? Vabbè. Non è che tutti si sposano con Kim Novak. Qualche volta ci sta pure Gheddafi. Dico, gli arabi, i libici, in Italia ci stanno da una vita. Prima di sposarsi con Berlusconi si erano sposati con Geronzi, dentro Banca di Roma. Qual è stato il problema? Dentro la Fiat i libici ci stanno da una vita. Il mio stupore è capire perché tutta questa attenzione. Vabbè, è ovvio perché ci stavano e quando ci stavano quando la Libia non era fidanzata con nessuno politicamente, anzi cannoneggiava Lampedusa, lo ricordate? Ecco, adesso non cannoneggia. Non manda fasci di rose rosse a nessuno, porta cavalli berberi, però è un clima che è positivo. Mitico, questo mitico il presidente della Fondazione Banco Sicilia Giovanni Pugliesi nella descrizione sul rapporto Italia-Libia, devo dire che storicamente, quantomeno molto di quanto ha detto Pugliesi è corretto, la presenza dei libici, quella la FICO, insomma, data dai tempi della Fiat. Comunque veniamo alla borsa adesso, poi invece torneremo a parlare di prospettive di ripresa senza di ministro dello sviluppo economico e anche diciamo, qualità di questa ripresa e relazioni industriali. Sarà il nostro ospite infatti il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, che ha la delega in Confindustria delle relazioni industriali. E parleremo anche della vicenda Melfi, della vicenda Fiom, Pomigliano. Comunque le borse. E allora iniziamo con la giornata più 1,1% il mercato. Più 1,1% dicevo Milano, più 1,12% Parigi, Milano tra le migliori, Francoforte più 0,80%, Londra più 0,90%, l'America più 0,60%, euro a quota 1,28,6, quindi vicino a quota 1,29, molto bene Intesa San Paolo. Più 2,90%, Tenaris più 2,2%, Autogrill più 1,90%, Eni più 1,80%, Geox pure, Finmeccanica più 1,70%, Luxottica più 1,5% come Banco Popolare e Mediolanum e anche Unicredito, Fondiaria più 1,3% come Buzzi Unicem e Impregilo, Fiat più 0,80%. Chi ha perso? Parmalat meno 1,4%, Prismian meno 1,2%, Lottomatica meno 0,70%, Campari meno 0,50%, niente effetto spritz per Campari oggi. Allora, come sempre con i colleghi di Radio Colle Sole 24 Ore, Cheo Condina, buonasera. Cheo Condina, buonasera. Buonasera, mi senti, ciao, buonasera a tutti. Allora, per quello che riguarda il titolo Finmeccanica, siccome è arrivata la sentenza del TAR del Lazio sull'appalto per le Ferrovie dello Stato che ha bloccato la gara, è strano vedere che il titolo guadagna comunque più 1,70. Ma sì, diciamo che oggi a Piazza Affari c'era qualche perplessità sull'andamento del titolo, anche perché poi ieri è arrivata questa notizia di una vendita di 6 aerei a una società americana di leasing, Willis Lease Finance Corporation, che Finmeccanica vende tramite la joint venture con i russi di Sukhoi Holding, una commessa da 300 milioni che comunque avrebbe dovuto già spingere il titolo ieri. Oggi probabilmente ha influito soprattutto questa commessa, che comunque garantisce un introito non indifferente al gruppo guidato da Guarguaglini. Ancora molto bene Intesa, tra l'altro insomma, bene tutti i bancari. C'era stata una dichiarazione ieri sera a mercato chiuso, no, di Beltratti, del Presidente, comunque sull'anno di Intesa. Sì, Beltratti aveva sottolineato che vedeva addirittura il secondo semestre meglio del primo, smentendo quelle che poi erano state le critiche espresse giorni fa dal Financial Times, che in un articolo aveva sottolineato come Intesa San Paolo, in quanto istituto fortemente radicato nel territorio, più di altri poteva subire un eventuale nuovo rallentamento dell'economia italiana. Beltratti invece diversamente dice proprio: credo che il rallentamento globale non si rifletterà sulla nostra banca, e quindi è molto ottimista. Questa, ricordiamo, era la prima uscita pubblica, certo, del nuovo Presidente del Consiglio di Gestione. Salita anche oggi in Pregilo, meno dei giorni scorsi, più 1,2%, ma c'è un'intervista su Sole 24 Ore all'amministratore delegato Rubegni, sì, e anche qui Prego. Un'intervista piuttosto chiara di Alberto Rubegni che ha detto nel 2012 debito zero, quindi saremo pronti per nuove acquisizioni. Poi Rubegni fa anche un discorso molto ampio sulla difficoltà di effettuare investimenti in Italia, ma comunque il senso del discorso è che Impregilo sarà molto aggressiva nei prossimi anni in acquisizioni e nella propria politica estera, quindi gli investitori oggi l'hanno premiata. Una nota, un inciso, molti di voi scrivono ma insomma cosa ci interessa della Consob, non ha funzionato bene. Allora, le critiche le abbiamo mosse anche quando c'è stata l'assemblea della Consob, a una Consob che insomma delle volte è intervenuta un po' tardi, un po' distratta, mettiamola così. Detto ciò, non è che siccome non tutti sono contenti di come l'autorità di vigilanza sui mercati ha vigilato su Italis, su Banca 121, su Giacomelli, sui prodotti venduti, per questo giustifichi l'assenza di un presidente, casomai è una richiesta per un presidente forte, incisivo, che intervenga prima che diciamo, i buoi scappino dalla stalla. Andiamo avanti con i titoli. Cementir, qui andiamo sui migliori e peggiori in assoluto, e Cementir è tra i migliori in assoluto, più 6,21%. Continuano ad arrivare ottime notizie dall'economia turca, il PIL vola diversamente da quello di altri paesi europei che continuano a risentire un attimo della striscia della scia della recessione. Cementir, che ha forti investimenti in Turchia, dunque ne giova particolarmente. Ricordiamo che poi anche che ieri era stata una giornata difficile per i cementieri che erano stati penalizzati da un report di alcuni analisti, e quindi oggi Cementir ha recuperato. Ancora sui titoli, devo dire sempre tra i migliori e peggiori, molto bene anche Borgo Sesia, più 7,70, Reno De Medici più 9,90, Green Vision più 5,5, e invece negativa e anche tanto CHL meno 6%, investimento e sviluppo meno 5,60 e poi Kersef meno 5,14%. Poligrafici editoriale più 3,82%. In questo momento l'America guadagna lo 0,70%. Ci ha raggiunto nei nostri studi qui al workshop Ambrosetti il vicepresidente di Confindustria con la delega alle relazioni industriali, nonché presidente del gruppo Brembo, Alberto Bombassei, da cui vorremmo carpire, perché ripeto, i giornalisti, chi non paga la quota non è ammesso dentro le sale dei lavori, ma vorremmo capire che cosa si è detto in questa prima giornata, perché insomma, ci è sembrato di notare Barack Obama e Mario Draghi abbastanza ottimisti, o cautamente ottimisti, sulle prospettive della ripresa. Qui da Chernobyl invece maggior pessimismo, e non solo perché c'è focus economia. Allora, Presidente Bombassei, più pessimista Chernobyl di Barack Obama? Francamente dai vari interventi che hanno fatto gli economisti direi che c'è un consenso, una condivisione della ripresa, anche se un po' in modo alternato. Una ripresa americana con grossi dubbi, qualcuno addirittura ha espresso la possibilità che ci sia una seconda crisi, magari più piccola, ma una seconda crisi. Altri invece in tono più ottimistico, come il professore tedesco che vivendo più da vicino l'economia tedesca, che invece è in forte ripresa, direi è stato un momentino più ottimista. Credo che quindi da parte nostra le segnalazioni come economia italiana e come ripresa industriale ci siano, senza adesso che ci dobbiamo montare la testa, ma credo che i segnali sono maggiore esportazione, qualche ripresa anche sull'occupazione, anche qui un po' a fasi alternate, quindi alcuni indici sono positivi. Se dobbiamo però ispirarci a una possibilità di una più rapida ripresa, credo che le condizioni che si sono create in Germania siano quelle a cui ispirarci. E torniamo quindi alla Germania. Anche oggi Mario Draghi ha detto la Germania è il modello da seguire anche per l'Italia. Allora, due domande. La prima, in Germania secondo lei sarebbe pensabile non avere un ministro dello sviluppo economico per 121 giorni e non avere il presidente dell'autorità di vigilanza sui mercati per 64 giorni? Sì, chiaro che è difficile da capire, da condividere il fatto che manchi un ministro e non possa essere sostituito, anche perché credo che ci siano fior di persone che potrebbero ricoprire quell'incarico con grande capacità. D'altro lato ci sono ci sono i vari sistemi, soprattutto quello politico, che in questo periodo è distratto da un sacco di altre cose, e francamente anche gli altri ministri o i ministeri che sono coperti per intero si stanno dedicando anche ad altre cose, quindi avremmo bisogno invece che ci si concentrasse su una sana politica industriale che forse manca un po' al nostro paese. E qui veniamo anche all'appello del Presidente della Repubblica Napolitano di ieri, una seria politica industriale. Lei, sia come Presidente e fondatore della Brembo, sia come Vicepresidente della Confindustria, sente l'assenza di una politica, non dirigista, perché nessuno vuole questo, ma insomma di una controparte forte, oltre al Ministero dell'Economia, che ci mancherebbe, ma ha come obiettivo il controllo in primo luogo dei conti pubblici, della spesa corrente, ma insomma una controparte sul respiro di medio termine, sulle politiche industriali? Ma più che una controparte, credo che ci dovrebbe essere un maggior coordinamento, quindi l'appello del Presidente della Repubblica lo trovo assolutamente corretto e condivisibile. Credo che una sana politica industriale dovrebbe tracciare una strategia industriale che le parti sociali dovrebbero poter condividere, quindi credo che l'appello sia Confindustria o le altre associazioni, sia al sindacato, perché si mettono intorno a un tavolo e possano condividere una sana politica industriale. Questo credo che sia la vera necessità per poter accelerare l'uscita dalla crisi. Torniamo al modello tedesco. Il modello tedesco vuol dire sì, una grossa capacità di fare sistema, grandi gruppi industriali, anche una grossa manovra e sforzo economico, però sappiamo tutti che il modello tedesco è anche un modello di compartecipazione degli utili aziendali, con i sindacati o i rappresentanti, diciamo, di Länder che siedono nei consigli di amministrazione. Visto che lei ha una delega specifica su questo in Confindustria, ecco, se ricordo bene, lei invece su questo è un po' più scettico. Allora, tagliamo la testa al toro. Lei è per la cogestione alla tedesca, che non vuol dire che non c'è più l'amministratore delegato, ma che insomma dentro il consiglio di amministrazione siedono anche i rappresentanti sindacali, sì o no? Ma io credo innanzitutto che ogni paese ha le sue tradizioni, le sue abitudini, le sue regole che vanno rispettate, quindi grande rispetto per le scelte fatte in Germania. Credo che noi siamo ben lontani di avere quella mentalità o quella maturità sociale per poter condividere la gestione. Attenzione che in Germania non è che la gestione la facciano anche i sindacati partecipano ai consigli di amministrazione come cogestori di alcune problematiche. Il pensare che ci sia la cogestione in Italia, direi che per il momento mi sentirei di poterla escludere. Questo ovviamente è un pensiero personale, ma penso di poter interpretare con correttezza il pensiero della stragrande maggioranza degli imprenditori italiani. Ecco, però è innegabile che proprio la crisi e gli ultimi mesi e la vicenda Fiat abbiano dato un'accelerazione al mondo delle relazioni industriali, nel senso che da un lato la Fiat con la vicenda Pomigliano ha chiesto un nuovo modello, diciamo, di rapporto industriale con resistenze, soprattutto della FIOM, e dall'altro la vicenda di Melfi ha posto l'attenzione sul rapporto tra giudice del lavoro e necessità di un'azienda, e quindi diritto come codici da un lato e scelte globali di un gruppo che cerca di sopravvivere in un settore difficilissimo come quello che lei conosce molto bene, dell'auto. Allora, secondo lei si arriverà inesorabilmente a una ridefinizione delle relazioni industriali a partire dal comparto, per esempio, delle quattro ruote e quindi del mondo metalmeccanico? Ma io francamente spero di no, anche perché spesso la gente parla e ha scarse informazioni su quello che avviene, allora ognuno auspica, quando non si sa bene che cosa dire, che cosa fare, apriamo un tavolo delle trattative, quindi si aprono centinaia di tavoli ma non se ne chiude mai neanche uno. Ci dimentichiamo, e tanti si dimenticano, che l'anno scorso con grande fatica Confindustria ha rinnovato gli assetti contrattuali condividendoli con gran parte del sindacato meno la CGIL, e secondo me ha dato veramente rinnovato questi rapporti, dandole una modernità che è poco presente, direi mettendola ai vertici della modernità in Europa. Quindi io direi gli elementi ci sono, quindi sono già stati rinnovati, lavoriamo con quelli e vediamo, se non dovessero dare dei risultati buoni eventualmente se ne possono parlare di altri. Ma parlare oggi, a distanza di un anno e mezzo, di nuovi assetti contrattuali, francamente lo trovo quantomeno strano. E chiaramente si riferisce all'accordo del gennaio 2009 in cui si è dato più spazio alla contrattazione di secondo livello, diciamo quella aziendale, che per far capire a tutti, mentre alla contrattazione nazionale resta il ruolo di cornice nei contratti. Però insomma, quando la Fiat rivendica anche insomma, la possibilità di fare un accordo a Pomigliano che non rientra diciamo, nel contratto nazionale, secondo lei ha ragione o no? Perché innanzitutto anche qui va fatta chiarezza, perché io credo che è stato molto, molto chiaro e molto trasparente anche a Rimini, credo, Marchionne sta chiedendo una cosa che credo tutti noi vorremmo chiedere, forse non abbiamo o il peso o il coraggio di farlo, una garanzia affinché possa l'azienda diventare competitiva per poter competere in un mercato che è diventato globale. La seconda è che già oggi questo rinnovo degli assetti contrattuali consente delle regole, quindi volendo si possono applicare quegli assetti contrattuali e quindi fare delle deroghe per esempio per Pomigliano o per altre necessità, quindi no, senza bisogno di dover rifare dei contratti a livello nazionale o territoriale. Un'ultima domanda sulla vicenda dei tre operai della Fiat di Melfi, insomma qui c'è la Fiat che dice va bene vi reintegriamo ma state a casa vi paghiamo, il tribunale che ha dato ragione ai tre dipendenti, insomma, lei dà ragione al tribunale, dà ragione alla Fiat? Io no, non so, francamente non sono in grado di dare ulteriori giudizi se poi ha ragione gli uni gli altri, ci sono i tribunali apposta e lo faranno. Quello che è un po' il mio stupore nel dire abbiamo dato per tutto il mese di agosto, riempendo pagine e pagine dei giornali, attenzione a qualche cosa che di principio è una cosa importante, ma lasciamo che i tribunali facciano il loro lavoro e nel momento in cui si sarà definito, ma in maniera definitiva, chi ha torto e chi ha ragione, la gente si comporterà. Non voglio entrare nel merito del giudizio che Fiat ha dato, però non mi sembra che vengano meno nessuno dei principi nel fatto di essere stati reintegrati, di essere pagati. E quindi se proprio non hanno esattamente lo stesso posto aspettiamo ancora un mese o due e poi vedremo. Ecco, nel salutarla le chiedo però come imprenditore della Brembo, voi avete avuto una fase anche di transizione delicata durante la crisi, adesso la ristrutturazione come va? Ma noi abbiamo avuto come tutte le aziende, soprattutto nel comparto meccanico e automobilistico in particolare, anche noi qualche difficoltà, una difficoltà che abbiamo gestito con una certa tranquillità, devo dire anche con un sindacato che ha capito la situazione, che è stato collaborativo, quindi senza dei grandi traumi, e adesso abbiamo francamente ripreso addirittura ad assumere, quindi questo è il primo segnale. Cassa integrazione in questo momento no, abbiamo ricominciato ad assumere quelli che avevamo cessato o messo in mobilità che avevano dei contratti a termine, quindi qualche segnale positivo c'è e devo dire che abbiamo anche come controparte una comprensione abbastanza buona, quindi questo è il segnale che quando c'è la buona volontà da tutte le parti le cose si possono fare senza... Quindi la Fiom a Bergamo è più lungimirante della Fiom in Campania? No, anche perché da noi credo che la Fiom non ha la maggioranza, per cui c'è una forte presenza anche di Cisle Will, sì. Però non sono così negativi a tal punto da mettersi di traverso su delle soluzioni che credo che siano condivisibili, perché abbiamo fatto tutto quello che era possibile per poter salvaguardare i posti di lavoro. E allora in bocca al lupo come sempre facciamo agli imprenditori e ai loro dipendenti, Alberto Bombassei, presidente della Brembo e vicepresidente di Confindustria con delega alle relazioni industriali. Grazie. Ci ha raggiunto nei nostri studi qui a Cernobbio il presidente del gruppo bancario BNL Luigi Abete. Presidente, buonasera. Buonasera. BNL Paribas, per essere corretti, sennò per quando diciamo Intesa, non Intesa San Paolo, la gente si arrabbia. Allora, noi non ci arrabbiamo. Voi non vi arrabbiate. Un primo commento a caldo, visto che l'altro tema di questa giornata è stato l'assenza di un ministro dello sviluppo economico e quindi la necessità per le politiche industriali, come chiedeva ieri il Presidente della Repubblica, anche di avere una figura del ministro allo sviluppo economico. Pochissimi minuti fa, come abbiamo raccontato in diretta, il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto la prossima settimana salirò al Colle per portare il nome del ministro. Soddisfatti quindi? Ma io penso che questa dichiarazione va nella direzione giusta, perché esiste un'amministrazione e quindi c'è bisogno di un capo di questa amministrazione, ma soprattutto perché esiste un'esigenza, cioè quella di avere al tavolo del governo un rappresentante che prioritariamente si ponga l'obiettivo dello sviluppo e quindi possa interloquire con chi ha come compito quello di mantenere stabile la situazione, in particolare il ministro dell'economia, chi ha come compito quello di dare sicurezza ai cittadini, il ministro degli interni, e tutte le altre funzioni pubbliche di settore. Dicevo, questo soggetto, questa funzione possa interloquire con le altre e quindi possa mantenere una visibilità su un tema che è strategico, anche se dobbiamo evitare di rendere utopico questo percorso, la crescita o non la crescita. Io da tempo, già l'anno scorso, lo dicevo qui a Chernobyl, sono attualmente convinto, noi andremo in un periodo di moderata crescita, questo vale soprattutto per l'Italia, in cui il range all'interno del quale possiamo giocare la nostra partita è in una forchetta che va dallo 0,5-1 al massimo al 2%, e che quindi bisogna comunque da un lato dimenticare l'utopia di numeri che non fanno più parte della storia per i paesi sviluppati, dall'altro capire che un paese che in fondo ha reagito bene a questa fase di crisi finanziaria come l'Italia, perché ha comunque una stabilità sostanziale dei consumi, ha una buona capacità di esportazione che ovviamente si rende più dinamica quando c'è un momento di ripresa nei paesi di nuova industrializzazione, e che purtroppo soffre di un ancora basso livello di investimenti, questo è il vero limite oggi dell'Italia. Dicevo, un paese come il nostro quindi starà sempre dentro quella forchetta, non bisogna essere particolarmente pessimisti ed è sbagliato essere particolarmente ottimisti. Chi invece è sembrato, ve lo facciamo ascoltare, particolarmente pessimista, ma insomma lo chiamano Mr. Doom in America, e è stato l'artefice dell'unica grande analisi sulla crisi che poi sarebbe scoppiata, Nuri Rubini, sentiamolo questa mattina qui a Chernobyl, addirittura intravedere i rischi di una double dip, di una doppia recessione. And already the data from July and August. Tutti i dati arrivati sulle vendite al dettaglio, sui beni durevoli, sull'occupazione sono negativi. I dati di oggi sui sussidi di disoccupazione sono mediocri. Ci sarebbe bisogno di una crescita di 150.000 posti di lavoro al mese solo per stabilizzare il tasso di disoccupazione. Tutto sembra suggerire che l'economia stia ulteriormente rallentando. E una volta che si arriva ad una crescita dell'1% circa, come mi aspetto per la seconda parte dell'anno, sembrerà una recessione, anche se tecnicamente non lo è. Tutto appare peggiorare. Il mercato del lavoro è debole, il deficit di bilancio si amplia, i prezzi delle case scenderanno ancora di più, le perdite delle banche sui prestiti e i mutui saranno ancora più alte. Dunque, sembrerà una recessione, anche se non lo è. E c'è il rischio che, procedendo così lenti, si cada giù dal burrone, perché lo shock dell'economia reale si può trasmettere ai mercati finanziari. Ulteriori correzioni in borsa, ampliamento degli spread, effetti negativi sulla ricchezza, portando l'economia formalmente in una recessione a doppia V. Queste sono le preoccupazioni per quanto riguarda gli Stati Uniti. Beh, una botta d'allegria e di ottimismo, Rubini. Presidente Abete? Però, innanzitutto, la lettura è nell'ultima frase. Questo è un rischio, secondo Rubini, per gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti non sono più il mondo. Noi dobbiamo liberarci da questa cultura per cui il futuro dello sviluppo del sistema dipende in modo prevalente, se non esclusivo, dall'andamento degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono ancora un paese e una realtà importantissima, ma sono evidentemente uno dei soggetti dello sviluppo. Oggi l'Asia è l'altro, e l'Europa, pur con la sua complessità e pur col suo scarso dinamismo, comunque è un soggetto che sta giocando la partita, secondo me, in modo positivo. Adesso ho un'operazione difficilissima, ho un minuto per sentire la sua opinione su due cose: l'assenza del presidente della Consob, che non manca solo il ministro dell'economia, e se è vero che le banche in questo momento continuano a finanziarsi con i tassi molto bassi della BCE per comprare loro stesse obbligazioni, cioè le banche come le vecchiette, come le nonne di una volta, invece che dare credito alle imprese. Guardi, per la Consob vale come per il Ministero dello sviluppo economico. Se esiste un ruolo, bisogna che questo ruolo sia ricoperto. Però bisogna dire che la Commissione in questi mesi, in queste ultime settimane, ha lavorato e quindi abbiamo visto un adeguato dinamismo, se posso consentirmi un giudizio. Banche e piccole imprese, direi che i problemi più psicologici o forse ideologici del passato oggi stanno alle nostre spalle, quindi esistono evidentemente situazioni diverse da caso a caso, però il mio sentore è che c'è un clima positivo e che pur nella complessità, perché la complessità rimane, non ci sbagliamo, se il mondo cresce comunque non a livelli elevatissimi, dentro questo mondo c'è chi va meglio e c'è chi va peggio, e questo non è solo in Italia, questa sarà la realtà dei prossimi anni, ma è anche, come dire, il funzionamento del mercato. Non possiamo chiedere efficienza e efficacia e poi rammaricarci se quelli che sono meno efficienti escono dal mercato. Grazie al presidente del gruppo BNL Luigi Abete. Berlusconi ha detto che la prossima settimana sale al colle per il nome, con il nome. Noi di questo abbiamo parlato, ma anche e soprattutto delle dichiarazioni di questa mattina di Mario Draghi, cioè ripresa che si sta rafforzando, cautissimo ottimismo, con il numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera. Beh, la ripresa c'è anche molta incertezza, e forse questa ripresa in certe parti del mondo come l'Europa non è sufficiente, o forse non è sufficientemente diffusa, però c'è ed è molto importante. Cresce una buona parte del mondo che è quello in via di sviluppo, che ormai tutto insieme è un pezzo importante dell'economia del mondo e pareggia quasi quella americana, che pur non crescendo tanto, ma pure lei anche cresce. In Europa ci sono paesi che riescono a crescere di più, paesi che crescono di meno, ed è giusto andare a vedere perché alcuni paesi meglio di altri sanno approfittare dell'aumento del commercio internazionale e sanno saltare sopra la nuova fase di crescita. L'Italia deve fare questo. A questo proposito il governatore Draghi ha fatto l'esempio della Germania come modello che anche l'Italia dovrebbe seguire. Secondo lei i punti di forza della Germania quali sono? Anche la partecipazione dei dipendenti, comunque agli utili d'azienda? Beh, la Germania è un paese storicamente molto forte in molti settori che hanno a che fare con lo sviluppo, con l'automazione industriale, con tanti settori dove la disponibilità di grandi aziende fa la differenza. Però anche noi siamo un esportatore tra i primissimi, siamo secondo paese esportatore, abbiamo visto come immediatamente anche le aziende italiane hanno reagito alle nuove possibilità sia della crescita nei paesi in via di sviluppo sia alla svalutazione dell'euro, e quindi noi abbiamo tutti gli strumenti per approfittare di questa fase di crescita. Certo, la Germania ha saputo lavorare sulla produttività del paese meglio di quanto hanno fatto altri e forse meglio anche di quanto abbiamo fatto noi. Però è alla nostra portata lavorare su questo, quindi bisogna lavorare sulla competitività delle aziende, e qui è un lavoro da fare insieme imprese, fisco, e sulla produttività e quindi sulla competitività del sistema paese, e quindi dalle sue infrastrutture, che fanno molto della produttività di un paese, al suo sistema formativo, al suo sistema della giustizia. Quindi è proprio un tema di fare un po' come ha fatto la Germania, e che adesso comincia a averne i benefici. Ma dottor Passera, ieri il Presidente della Repubblica ha invitato il Paese a dotarsi di una seria politica industriale. Secondo lei è possibile avere una seria politica industriale senza un ministro all'industria e allo sviluppo economico? Crescere il Paese è un tema di lungo termine dove tutti devono contribuire, perché non è solo questione di economia. Un Paese cresce quando funzionano le imprese, funziona il sistema Paese, funziona la giustizia, funziona l'istruzione, c'è coesione sociale, c'è dinamismo. Quindi se si vuole crescita bisogna lavorare tutti insieme. Chiaro che il ruolo di un ministro come quello dello sviluppo economico è pivotale se si ha un obiettivo di questo genere. Ma si sente più l'assenza di un ministro dello sviluppo economico o del Presidente della Consob, secondo lei? Beh, si sente la necessità di entrambi ed è urgente che entrambe le posizioni vengano coperte. Il lavoro d'insieme poi deve essere coordinato, ma anche tra le parti sociali. Non è che si può chiedere al governo di spingere l'economia. Il governo è una parte importante, dall'altra parte gli imprenditori, dall'altra parte i sindacati. Cioè, se si vuole crescere stabilmente nel medio-lungo periodo, è veramente un tema di classe dirigente nel suo insieme e di lavorare tutti per e non contro. Io so che lei ha già smentito comunque nessun interesse per la politica, il ruolo di banchiere è un ruolo, diciamo, socialmente e politicamente utile. Ci sono già e sto benissimo. Così Corrado Passer, lo abbiamo intervistato chiaramente prima che uscissero le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, prima dell'inizio della diretta. Invece ci hanno raggiunto, e sono gli ultimi due ospiti che abbiamo, il Presidente dell'Enel Piero Gnudi da un lato e dall'altro l'amministratore delegato del gruppo Unicredito, del gruppo Edison, Umberto Quadrino. Buonasera a tutti e due. Buonasera. E buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, Presidente Gnudi, iniziamo con il tema che poi oggi Mario Draghi ha rilanciato dall'Asia, e quindi il governatore della Banca d'Italia ha detto in sostanza la qualità di questa ripresa c'è e notiamo anche un'espansione della ripresa a livello globale. In qualche modo sembra aver messo a tacere i dubbi che si sono diffusi in queste settimane su un secondo semestre più debole, soprattutto in America, ma anche in Europa. Voi come Enel, ma anche lei come economista, condividete il pensiero o ritenete che in realtà le incertezze restino ancora molto forti sul secondo semestre del 2010? Beh, io credo che qualche incertezza ci sia ancora. Certamente il fatto che oggi viviamo in una economia globalizzata e in molte parti del mondo la ripresa invece è forte, e un paese come l'Italia che vive principalmente di esportazioni, questo certamente ci dà dei vantaggi. Però certamente non è che si può essere molto ottimisti, perché continuamente ci sono segnali contraddittori che rendono un po' incerto il futuro per molti operatori. Sul fronte della vostra attività principale, quindi anche dei consumi energetici, quello è un indicatore importante anche sulla qualità della ripresa dal punto di vista industriale oltre che privato, che livelli vedete raggiungere? Beh, lì bisogna fare dei distinguo. Noi siamo presenti in vari paesi. In Italia purtroppo nel primo semestre non c'è stato un grande incremento, c'è stato un incremento dell'1,9% contro una riduzione dell'anno scorso di circa il 7%. Luglio è andato abbastanza bene, ma è dovuto al caldo, c'è stato un incremento del 3,5%, mentre in agosto c'è stato di nuovo una riduzione. Però negli altri paesi invece le cose stanno diversamente, soprattutto in Sud America. In Sud America c'è una forte ripresa, quasi tutti i paesi crescono e crescono in modo sostenuto. In Russia le cose vanno bene perché anche lì c'è una forte ripresa. Quindi io credo che guardando a livello globale i consumi di energia si è abbastanza ottimisti. Guardando l'Italia l'ottimismo cala un po'. Dottor Quadrino, anche per lei un commento alle parole, più che alle parole di Mario Draghi, diciamo alla qualità della ripresa che voi vedete come gruppo Edison, e poi vorrei capire sia da lei che dal Presidente Gnudi anche i rapporti con la Libia di estrema attualità dopo questa visita un po' folcloristica del leader libico Gheddafi. Prego, dottor Quadrino. Beh, diciamo che condivido la visione sul mercato italiano, di riprese presto per parlare. C'è una situazione migliore rispetto all'anno scorso, ma l'anno scorso era talmente scesa la domanda, 6-7%, e quest'anno c'è una ripresa, ma stiamo parlando di un paio di punti percentuali. Siamo lontani dai livelli antecrisi, questo sia nel settore elettrico che nel settore del gas. Ottimismo, pessimismo, la situazione internazionale. Beh, oggi gli interlocutori, i relatori al forum Ambrosetti non ci hanno dato dei grandi segnali di ottimismo. In Europa c'è una situazione dove la Germania è in forte ripresa, ma molte incognite gravano su tanti paesi. L'Italia è forse nel gruppo di testa di questa ripresa, ma sappiamo che i segnali di incertezza sono ancora molto forti e molto punti interrogativi anche sugli Stati Uniti. Certo, ci sono altre zone del mondo che vanno meglio. Ecco, lei citava gli interventi della mattinata, abbiamo visto, abbiamo anche ascoltato le dichiarazioni di quello che è considerato il guru della crisi, mi riferisco a Rubini. Quali sono stati gli interventi che hanno più sorpresa o lasciata ho spiazzato questa mattina. Diciamo che Rubinino non è stata una sorpresa, perché era sempre stato pessimista, adesso si fa quasi. Ecco, l'economista tedesco mi ha colpito che riflette un punto di vista della classe dirigente tedesca. Loro si considerano un paese che attraverso sacrifici, attraverso la disciplina economica, sono riusciti a uscire dalla crisi e mal sopportano l'indisciplina di molti altri paesi, il fatto di non rispettare le regole, il fatto che i parametri di Maastricht non vengono rispettati. Si dice: in Europa abbiamo bisogno di regole, di obbedienza e di disciplina. È un ritornello che sentiremo spesso. Presidente Gnudi, anche per lei cos'è l'elemento? Cioè, sappiamo che sulla qualità e la tipologia di questa crisi nessuno ha certezze, però nella prima giornata di lavori, che sta avviandosi alla conclusione, come si sentiva da questo gong un po' la Tarzan che giava nelle nostre spalle, qual è l'analisi che l'ha sorpresa di più, al di là dello scetticismo moderato di Rubinio o appunto dell'atteggiamento tedesco che si sente un po' isolata in un'Europa che fa più fatica a tenere botta su bilanci e aumento della produttività? Beh, io condivido quello che ha detto prima il dottor Quadrino. A me mi ha sorpreso molto la posizione dei tedeschi, perché la visione è una visione molto difficile e molto pericolosa quella di... Perché noi dobbiamo aver presente che l'euro deve tenere, non possiamo pensare che un paese possa uscire dall'euro, perché ormai i legami sono tali che l'uscita dall'euro di un singolo paese sarebbe distruttivo per tutto l'euro. Questo credo che sia uno degli elementi di incertezza più difficili da superare nei prossimi mesi. Beh, grazie sia a Umberto Quadrino che a Piero Gnudi per questo commento sulla situazione e anche su quello che è emerso da questa prima giornata di lavori qui a Cernobbio. Noi abbiamo concluso, ma non resta che ringraziare Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e augurare a tutti voi in ascolto un buon fine settimana. Poi noi ci risentiamo da lunedì in poi, dalle 17 in poi, sempre con Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.